una parola, prima che tu ti muova, potrei saltarti addosso in modo un po' selvaggio. Sei già dentro i miei occhi, rimani un po' distante, o perderò il controllo, succede in un istante. Rugiada nei tuoi occhi, il pianto della sera, e dentro il tuo sorriso ho visto la mia morte. E se hai un po' di coraggio, dai tienimi in ostaggio, sarai la mia prigione, sarai il mio paradiso. Non riesco a respirare, non farmi più soffrire da questo guscio stretto, dovremo pure uscire. Una parola, prima che tu ti muova, potrei saltarti addosso in modo un po' selvaggio. Sei già dentro i miei occhi, rimani un po' distante, o perderò il controllo, succede in un istante. Rugiada dei tuoi occhi, il pianto della sera, e dentro il tuo sorriso ho visto la mia morte. E se hai un po' di coraggio, dai tienimi in ostaggio, sarai la mia prigione, sarai il mio paradiso. Non riesco a respirare, non farmi più soffrire da questo guscio stretto, dovremo pure uscire. Sarò il tuo menestrello, sarò una crema dolce per tutta la tua pelle. Sarò il tuo giocoliere, sarò il tuo menestrello, sarò una crema dolce per tutta la tua pelle. Quante luci nella città, ma sembra buia senza te. Quanta gente per le strade, sembra un vuote